quote che per forza insomma porta sicuramente in un'altrove che magari non è quello appunto casalingo, non rimane quello, quelle quattro mura vengono abbattute per dare una, un'immagine di città, di urbanità comunque antagonista, e questo è un po' il discorso che potrebbe come dire associare i due, ma potrebbe insomma essere basico per capire un personaggio come Jello Biafra con la sua Alternative Tentacles, che stasera appunto stiamo trattando in questa quarta parte di Californian Uber Alles. E tra l'altro c'è anche un'unione incredibile, se prima abbiamo sentito i Bastard Noise, quindi un noise che era lì diventare qualcosa che poi sarebbe esploso completamente negli anni zero in America, stiamo parlando insomma dei primi anni 90, per le cose ascoltate insieme a Mummia e insieme anche allo split con Paying Jack, appunto, e Bastard Noise, che è un altro gruppo tremendista ultra noise giapponese. Abbiamo poi ascoltato Witch Trials, veramente abbiamo tra l'altro ancora in sottofondo una di quelle perle eccezionali di questo meraviglioso catalogo che è dell'Alternative Tentacles, e non solo, perché la terza trasmissione, la scorsa di 451, abbiamo trattato la Subterran Record, riguarda di fatto anche loro, proprio come è successo per Battle Surfers, che vedeva la collaborazione di due etichette come Subterran e Alternative Tentacles, la stessa cosa riguarda White Trials, progetto eccezionale, ma nel vero senso della parola, pezzi che fanno parte di questo mini omonimo del 1981 che vanno veramente dentro una forma di cold wave, di synth punk, di sperimentazione elettronica post punk veramente eccezionale, anche per la caratura dei personaggi che veramente sono ispiratissimi. Adrian Borland con già il suo progetto di culto assoluto come The Sound, i primi due dischi assolutamente, Jeopardy che è il primo, ma anche il secondo, di dischi che non possono mancare insomma dentro una discografia post punk da ascoltare, perlomeno insomma per impatto sonoro, per questo senso di gravità che non è fine a se stesso ma diventa veramente un linguaggio espressivo potente, incredibilmente potente dentro Sound. Adrian Sherwood abbiamo messo prima appunto dentro il remix di Beatnik. Adrian Borland partecipa a questo progetto insieme a Jello Biafra e assieme a Christian Lunch, che dopo troveremo anche altro sorta di waiver impazzito dentro l'Alternative Tentacles, e Morgan Fisher dentro appunto White Trials. Ci trovate sonorità sghembe e sperimentali nel senso più ampio del termine. Infatti ci andiamo a prendere un altro pezzo da questo Witch Trials, già abbiamo ascoltato lo splendido brano che apriva l'EP, ovvero Humanoid from the Deep, con una copertina anche questa da andare a cercare, perché insomma la dice lunga sull'immaginario anche visivo di White Trials. Ci andiamo a sentire Meat Beat, il battito della carne, per andare a trovare un punto altrettanto mutante di questa splendida e seppure effimera formazione White Trials. Oh, I drop you on the bed, I rip off all your clothes, and then you give me head. Yeah, hey. I peel back all the sheets, make sure you're still asleep. I spread away your legs, I stick you in a crack. Yeah. da White Trials a un'altra formazione assolutamente eccezionale come Voice Farm, dentro quel 1982-81 anzi sia per White Trials che per Voice Farm, e una sorta insomma di gioco synth punk, gioco decisamente interessante, gioco nel senso serio nel termine, scusate lo simile, insomma, però con Voice Farm insomma si va anche a toccare quella grande assenza ma voluta insomma della Ralph Record, visto che passeranno anche dall'etichetta dei Resident, un'assenza che abbiamo voluto qua da queste parti di 451, perché poi di fatto trattiamo la faccenda Ralph da molti anni, in primis con Residence, ma che poi magari potremo anche trattare insomma a parte, chissà, più avanti dentro 451. Ma appunto con Voice Farm si tocca sia una che l'altra, sia Alternative Tentacles che produrrà il loro primo 45 giri che abbiamo ascoltato appunto come Double Garage Elevate, e poi la Ralph invece produrrà il loro primo LP, tra l'altro decisamente interessante per spunti così surreali, molto tra il gioco e appunto uno sperimentale legato al synth punk o quello che si stava trasformando dentro quel suono, un suono che si trasforma nel corso degli anni, seppur pare monolitico, è quello di Michael Gira, che deve anche egli molto Jello Biafra, soprattutto per avere iniziato la sua carriera solistica, seppur c'è un disco con Lil Ranch, Michael Gira, dei primi anni 80, che forse ci fa inquadrare un Michael Gira che era ancora dentro la New Wave, Circus Mort, il suo primo progetto era di fatto insomma un disco di New Wave prima di formare i terribili, temibilissimi Swans, soprattutto nel primo periodo, insomma musica industrial, se volete definirla rock, ma di quello che rimane forse di un'idea di rock decostruito e terminale nella maniera più assoluta, dischi come Cop, come Filth, insomma parlano veramente un linguaggio che si fa postumo, ma nel vero senso della parola, anche post-tribolare se vogliamo, è un suono che poi darà veramente tante genie, ne sentiremo una immediatamente dopo, che proviene appunto direttamente da Michael Gira e dagli Swans, nonché dalla Jarboa, altro personaggio che tra l'altro, così vi do anche come dire una piccola anticipazione di quello che uniremo al primo disco di Michael Gira, Jarboa, che lavorerà appunto col progetto che inseriremo dopo. E Michael Gira che stampa proprio sul finire della carriera, la prima carriera di Swans, poi Swans torneranno proprio in questi anni, tra l'altro con dischi decisamente insomma belli, seppur forse così più sul frangente Young Goats Record, che è un po' l'etichetta di Michael Gira, che rappresenta appunto il suo lavoro di produttore, che è anche quello poi di cantautore, in questo senso anche dicevo non si può insomma vedere in maniera monolitica la figura e la musicalità di Michael Gira, che a parte appunto un periodo, quello primissimo di Swans, tra l'altro è assolutamente geniale come industrial band, poi di fatto arriverà a momenti anche astratti, non perdendo però di espressionismo, con Children of God ad esempio, disco meraviglioso, doppio di Swans, o come allambire territori veramente di cantautorato folk veramente intenso negli ultimi Swans, che poi arriveranno appunto a formare, a definire quello che sarà il proseguo di Michael Gira, andando appunto a prendere proprio quel periodo finale del primo dei primi Swans, Mark One, come si diceva una volta, insomma, definendo i vari periodi dei gruppi, e quindi tra formazioni e riformazioni. E andiamo a prendere Drainland, un disco che vive veramente e che vede lontano, sia in termini di cantautorato, sia in termini di sviluppo di un industrial che si fa poi un termine, insomma, abbastanza infelice, ma che potrebbe essere indicativo, folk apocalittico, ma insomma abbastanza ridicola come termine, però è servita, insomma, a vendere un po' di dischi, quello sicuramente, soprattutto a qualcheduno, e non a Michael Gira, che non aveva bisogno, insomma, di trucchetti, soprattutto con un album intenso e veramente eccezionale come Drainland, e poi dei suoi figli anche abbastanza dichiarati, quindi senza nessun plagio, anzi tutt'altro. Their bodies in a pyre, leaking black smoke into the flames, and all the people stand around, shaving lips into my name. And soon the sun begins to sink behind the wall of dirty air. I see their bones there in the pile, taste the smell of burning hair, and all the children howl for milk. The rain spills down amid the hives. I see you running naked through the field. I see you running for your useless life. I feel you choking on your tongue. I feel your breath attack your chest. Dogs are ripping at your feet. I see you bleeding out your happiness. And I feel good. Yeah, I feel fine. Yeah, I feel good. I finally got back what was always right. E dopo Michael Gira abbiamo ascoltato in successione, beh, forse qualcuno, anche se non era proprio facilissimo da riconoscere, abbiamo ascoltato Neurosis, quindi insomma faccenda piuttosto pesante in termini musicali, sia per quanto riguarda insomma linguaggio adoperato da Neurosis, sia per un peso anche a livello di culto, di grande amore che hanno come formazioni Neurosis, amatissimi sia da ascoltatori legati a un metal molto evoluto, sia da ascoltatori legati a un industrial che va a incocciare appunto in un suono che si fa sperimentale, si fa così dilatato senza perdere in potenza, in grande espressività. In questo senso, insomma, dicevamo un po' la genia degli Swans si sente dentro Neurosis, che prendevano proprio dal loro Enemy of the Sun proprio quel linguaggio, portandolo in ulteriori lidi. Forse il metal, il doom, forse quel metal più appesantito che innuce dentro Swans diventerà una sorta di caratterizzazione forte e di sviluppo del linguaggio appunto di Michael Gira and Company dentro appunto il così progetto inteso veramente in senso lato come progettualità anche sperimentale appunto di Neurosis, che abbiamo tratto da appunto un lavoro stampato da Alternative Tentacles nei primi anni 90. E poi abbiamo ascoltato Klaus Floride, sperimentatore sui generis, semisconosciuto, se non proprio misconosciuto personaggio, che appunto si è aggirato nella seconda metà degli anni 80 proprio con un suono tellurico e forse con così un industrial che viene così portato a una forma molto astratta, molto pestata, sì tellurica, però insomma con un rimando indiretto forse a quel linguaggio, come d'altronde poi anche le mutazioni dentro il corpo sonoro di Neurosis, come d'altronde appunto Swans, ci portavano a quella matrice che però diviene tutt'altro, figlia in maniera anche piuttosto così sorprendente anche dentro i lavori di Klaus Floride, anche questi forse da recuperare, sì, di fatto poi ingiustamente anche non ristampati. Questo era Because Say So del 1988. E se dobbiamo parlare di Alternative Tentacles e ascoltare, soprattutto ascoltarla come etichetta che ha creato una fusione, un'amalgama di stili, forse anche una sintesi tutta loro, senza assolutamente intellettualismi, se c'è una intellettualità, un'intelligenza dentro Alternative Tentacles, non è mai mediata, è sempre immediata, e questa è la particolarità che Jello Biafra riesce a dare a tutto il progetto della, dell'etichetta, e riesce tuttora a fare, anche con momenti quasi, quasi indie, se pensiamo alle, alle ultime produzioni, ma non solo, anche momenti elettronici, poi magari nel qualche altra trasmissione di 451 avremo modo di trattare le faccende ancora di Alternative Tentacles. Qua siamo ancora alla fine del, degli anni 80, con una fusione appunto sperimentale di un post-hardcore che, tra l'altro, scordavo di citare anche dentro le corde di Neurosi, con Stick Dog, diventa un hardcore decisamente evoluto, appunto post, nel senso che parte da un suono definibile dagli stessi Dead Kennedys dell'Alternative Tentacles e di Jello Biafra, per poi andare verso lidi che saranno molto sviluppati da certo Matt Rock, se vogliamo, quindi da Shellac, Don Caballero, e quindi anche tutto il portato post rock che da queste formazioni e da questi suoni si svilupperà. Andiamo a trovare appunto Stick Dog da questo gioiello che è Human, disco veramente eccezionale, anche proprio per corde, emotività che riesce a toccare appunto questo progetto americano. dopo Stick Dog anche qualche minuto di Grotus, un'altra formazione notevole dentro Alternative Tentacles, che l'abbiamo ascoltato con Slow Motion Apocalypse, che giocano insomma con così un'India da iconografia così classica, da cartolina oseremmo dire, per in copertina, ecco, di questo Slow Motion Apocalypse, per invece poi ridefinire o indefinire, forse per meglio dire, un suono rock industrial che va a parare veramente da molte parti, anche con appunto un oriente completamente traslato, sia appunto a livello di immagine, immaginario, e sia anche a livello insomma di musicalità, che ogni tanto prendono corpo dentro Grotus. E per concludere questa insomma lunga, in realtà per niente lunga, California Uberale si è dedicata all'Alternative Tentacles, che tra l'altro ha visto passare formazioni assolutamente incredibili e fondamentali per le musiche rock altre, non solo, personaggi come formazioni come Melvins, Zenigheva, ricordiamo che da questo gruppo hardcore uscì Keke Null, quindi insomma uno dei grandi del noise della fine degli anni 90, degli anni 0, tuttora insomma piuttosto attivo con cose molto interessanti, e l'hardcore matematico incredibilmente scientifico, ma nello stesso tempo dirompente, di No Means No, quindi veramente cose eccezionali dentro un catalogo di per sé già eccezionale, ma veramente con figure eccelse, direi, in modo anche di intendere veramente l'esperimento sonoro tout court, e anche quello linguistico, come d'altronde tutto o buona parte dell'Alternative Tentacles. Finiamo infatti con due personaggi piuttosto strambi: Christian Lange, che abbiamo trovato prima per un attimo con White Trials, ma con i suoi lavori solisti si darà una sorta di synth pop folle, e il personaggio forse più folle dell'Alternative Tentacles, ovvero Wesley Willis, una sorta di cowboy andata male, impazzito, che fa anche, detta come la detta, morire da ridere con il suo country improbabile, improponibile, meravigliosamente tale, che se la prende tanto con Arnold Schwarzenegger quanto così citando Jello Biafra, facendogli una sorta di omaggio, decostruendo e quindi rendendo anche surreale tutta l'elipica insomma di Alternative Tentacles. Ma questo non toglie, anzi, un grande omaggio parodico che fa all'interno appunto dell'Alternative Tentacles, e poi insomma momenti veramente di country elettronico folle, insomma c'è veramente di tutto. Ci andiamo a sentire appunto un pizzico di Christian Lange e Wesley Willis, vi lascio insomma in buone mani, insomma mica tanto, però mani sicuramente estrose, e vi rimando a mercoledì prossimo per un'altra insomma avventura, non con California Liberales, abbiamo finito qua questa escursione dentro la California Post Bank, ma con un'altra faccenda che vedremo un po' dove andrà a parare, chissà. Buonanotte da Max Macchia, o buongiorno se ci ascoltate dal blog magari in orari diurni, e alla prossima, ciao. Male camel's dick, sucky hyena's ass, sucky Doberman's cock, sucky snow leopard's ass, sucky rhino's dick. Sucky camel's ass, sucky camel's ass, sucky caribou's ass, sucky caribou's ass. Sucky hippo's cock, sucky honey badger's ass, suck a llama's balls, suck a Labrador retriever's dick. Suck a caribou's ass, suck a caribou's ass, suck a caribou's ass. je suis zéro, je suis que toi, et si tu viens.